falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi abbiamo deciso di riproporvi una storia molto bella, anche se come tutte le storie belle anche con dei risvolti non felici, malinconici. Oggi vi raccontiamo una grande amicizia, di quelle amicizie che nascono tra le difficoltà, tra le speranze, quando sei ragazzo e in qualche modo condividi i tuoi sogni con qualche altro ragazzo che ha le tue stesse ambizioni e le tue stesse inclinazioni. Questa è una storia che arriva dalla provincia napoletana, da uno di quei piccoli centri ai piedi del Vesuvio che ormai sono stati inglobati da Napoli, fanno parte integrante di Napoli. È un territorio ricco di arte, di talento, di vicoli, di case nelle quali risuonano accenti speciali particolari, è un dialetto pieno di musicalità, è una zona che ha generato molti comici, da Totò in avanti, insomma, ha segnato la storia della comicità e dei giganti del teatro italiano. Mi viene in mente De Filippo, comunque la famiglia De Filippo, ma me ne vengono in mente tanti. Bene, oggi noi raccontiamo la storia di quei tre ragazzi che un giorno decidono di fare ridere tutti, di fare teatro e decidono di chiamarsi La Smorfia. Sì signore, confesso, mi sono venduto le scuole. Piano. Ma perché l'hai venduta? Perché io mi pensavo che zio Pasqualino non si alzava più. Oh mamma mia, voi lo sentite? Insomma, io aveva morito. No. Aveva morito zio Pasquale. Aveva morito, cioè no, non è che aveva morito, perché sono sfortunato, che sia la verità, sono sfortunato. Il medico, quando lo venne a visitare, parlò chiaro, no? Aspetta un momento, il medico ha parlato chiaro con chi, ma che mi si nasconde qui? Pasqua non dovete, che sei un bruglione, un bucciardo. Sì, è un bruglione, sì. Il medico disse che c'era pericolo, ma nessuno sta parendo, no? E allora io che va a fare? E questo è il grande Edoardo De Filippo. Ti piace o presente la scena del Natale in casa Cubiello? È impossibile non fare i conti con le sue opere, se stiamo parlando di teatro e di napoletanità. Ma non è la sua storia che vogliamo raccontare. Oggi raccontiamo la storia di tre ragazzi saliti sul palco di un teatro di quartiere per la loro passione, che poi hanno trovato un incredibile successo. A parte il fatto che io non sono Maria, guarda. E fai fatto un riconoscimento. Annunciazione. Tu, Maria, non fai sono figli Maria. Di... Annunciazione. Tu, Maria, fai Maria. Figli Salvatore. Gabriele ti ha detto la buona notizia. Gabriele, tu sei scemo! E sfido a trovare qualcuno che non si ricordi di questo sketch. È uno dei pezzi comici più famosi del gruppo La Smorfia, una fortunatissima esperienza prima teatrale e poi televisiva. Il gruppo La Smorfia con il grande Massimo Troisi, ma anche con altri due grandi, Lello Arena e Enzo De Caro, sono partiti giovanissimi dalla provincia napoletana. Il viaggio artistico è partito da lì e si è concluso idealmente con le 5 candidature al l'Oscar per il postino di Massimo Troisi, il cui viaggio, ahimè, è terminato molto presto. Questa, come vi ho detto all'inizio, è una storia di amicizia, di ragazzi che condividono una passione, ma anche i problemi di un territorio depresso, insomma, il lavoro che non c'è, per esempio, è il primo di questi problemi. Il gruppo è, non voglio dire guidato, però insomma, quello che spicca, quello che fa più ridere nel momento in cui loro si esibiscono, la centralità è sua, si chiama lui, Massimo Troisi. Nasce a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio del 53. Un ragazzo sveglio con una passione naturale per l'arte, però ha una difficoltà supplementare rispetto a tutti i suoi coetanei, perché fin da bambino è malato di febbre reumatica, soffre